Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'ultima eclettica della settimana, quella che va a incominciare in onda originariamente venerdì 11 gennaio e poi dopo qualche ora disponibile in podcasting, in modo che possiate downloadare il tutto e ascoltarvelo nel giorno che preferite, all'ora che preferite, sul vostro lettore MP3. Tutti i dettagli su myspace.com/eclettica e, nel caso di lezioni private, come spesso dico, potete anche fare riferimento a giulio@radiorockfm.com, riferimento valido anche per la lista nera che vi permette di ricevere la playlist settimanale. Dicembre 1950, domenica. Non ho coraggio. Se riesco a stare chiuso in casa è perché non so più dove sbattere la testa. Ho passeggiato. Grazie a questo smorto sole di dicembre sono stato al cinema, ho letto il giornale. Non è ancora sera ed eccomi di nuovo qui. Incerto se telefonare o no a qualcuno, se sdraiarmi sul letto o aprire la radio. Appena smetto di fare, sprofondo. Mi vergogno e non so se riuscirò a venire fuori da questa vergogna. Per un uomo di 40 anni, che ha sempre cercato di stare nell'ordine, è una brutta storia. I pensieri mi ballano nella testa e appena cerco un appiglio, eccomi risbattuto ancora più violentemente contro questa vergogna e contro la vergogna di vergognarmi. Questo era l'incipit della Suora Giovane di Giovanni Arpino. Mr. Daly, I can honestly say in 43 years at this agency, I've never seen a resume quite like yours. Ah, all right. That wasn't a compliment. Come già vi ho detto più di una volta, questo è un periodo dell'anno in cui le uscite discografiche sono particolarmente rarefatte, quindi bisogna fare tesoro di quanto già è uscito oppure basarsi su qualche anticipazione, come per esempio sto per fare nei prossimi minuti. Però prima vi voglio ricordare quanto vi siete già ascoltati: Juliana Berwick che ha aperto con la sua ipnotizzante Dancing with Friends e poi Tiago Lies Losing the Plot con l'interludio di Jerison. È un inizio tutto statunitense questo, perché sono statunitensi di Baltimora per la precisione anche i successivi Beach House, la novità di cui vi facevo cenno prima, che ci ascoltiamo con Gila, che è un'anticipazione di quello che è il nuovo album Devotion, che uscirà per Car Park il 26 di febbraio, della formazione composta da Alex Skelly e Victoria Legrand. Vi ricordo, loro si chiamano Beach House e questa è Gila. Man, you got a lot of jokes to tell. So you throw me Egregio Signore e Dio, mi perdoni quest'ultima lettera. So di non doverle scrivere più. Ho finalmente capito la lezione. La sua risposta è il silenzio. Ma non essendo un pensatore, sono arrivato con molto ritardo a questa grave scoperta che rende ancora più difficili le nostre preghiere. Mi ritengo un uomo come tanti, un piccolo eroe negativo, e se oso rivolgermi a lei è per dirle che il mondo d'oggi... Giacomo Berzia scrutò l'orologio. Erano esattamente le 11:58. Dopo 50 secondi terminò la lettura di quella pagina. Liberando dalla cuffia il cranio e gli orecchi, percepì il crepitio dei piccoli applausi, trattenute risatine, rumori sommessi che il nastro registrato mandava in onda a chiusura della trasmissione. Questo era l'incipit della Trappola amorosa di Giovanni Arpino. Here you were the CEO of Snap Time Industries. Care to elaborate on that? Sure. Well, that was the umbrella corporation for my invention, the snapper. You know, you snap, lights come on, snap, they come off. Didn't they already make that? No, that's the clapper, which obviously stole a bit of our thunder. Personally, I don't really see what the big difference is. I mean, you know, whatever, but apparently, there is a significant portion of the population that has trouble actually snapping. Clapping's easier. Debatable. Mm-hmm. disagree. I have certainty to abuse of everything. Details structure my mind without to be mine. Between dust and snow, just a shade, just a little bit of ice. It's easy losing ourselves. There's a mirror that overturned my will and thwarted my image in its labyrinth. It's impossible to know someone's true self. I prefer to be idle than to understand. Lethargy is a dream. Human logic is wrong. Cosmos has reasons that human reason can't understand. My life has been an opposite I'd want. In a cloud of smoke, I've set myself. We are smoke. Myself in a cloud of fate. There's a mirror that is my logic offers me twisted views of reality. And my image in his logic is wrong. It's impossible that to know someone's true self. It's deceptive of my thoughts. Is it just the logic of our space? Twisted views of reality. Exactly like this strategy. Human logic is wrong. Na na na na na na na. Agreements disagree. Visitants of certainty. Kid Icar con Human Logic, la formazione toscana che ci siamo appena ascoltati quasi in chiusura della prima parte di Eclettica. Prima ancora un duo italo-tedesco, quello dei Woog Riots, che da qualche settimana a questa parte ci fanno compagnia con King of Pop, pezzo che non so se essere autobiografico e quindi immodesto. Ora ho la possibilità di fornirvi un'anticipazione di quello che sarà il nuovo album degli Shoo Shoo. Women as Lovers, questo è il titolo del disco che uscirà per Kill Rock Stars, per la precisione il 29 di gennaio. Questo disco si apre con un brano che è proprio un marchio di fabbrica come suono, come utilizzo della voce da parte della formazione di James Stewart. Brano che apre Women as Lovers, intitolato I Do What I Want When I Want. You ask on hurry.